scippo di immagine presidenziale, colpo d'ala per queste difficili primarie, sulla scia di una richiesta del Congresso in attesa della Pennsylvania, Hillary Clinton ha chiesto ieri a Bush di non recarsi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Pechino. La Casa Bianca ha risposto con nonchalance: non se ne parla, neppure siamo preoccupati anche noi di quel che capita in Tibet e a Darfur, e lo diciamo e lo diremo, ma chiudere la porta alla Cina sarebbe peggio, meglio il dialogo. Per la Clinton c'è il rischio del boomerang. Gli americani oggi preferiscono il dialogo al confronto. Per questo, per ora, preferiscono Barack Obama a lei. E lui il vero campione del dialogo e dell'apertura. E con il suo silenzio in materia è sembrato più presidenziale della signora Clinton. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York.